L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Parleremo di legno oggi, un tema che avevamo affrontato tempo fa e che riprendiamo volentieri sull'onda della mobilitazione europea lanciata dalla European Panel Federation, cioè la Federazione Europea dei Produttori di Pannelli, cui hanno partecipato in Italia diverse associazioni del legno facenti capo a Federlegno Arredo, tra cui Assopannelli. A fine marzo ci sono stati gli Action Days 2012 per sensibilizzare le istituzioni sull'uso del legno per scopi industriali e promuovere una corretta gestione delle risorse forestali e illustrare però anche le non poche contraddizioni che vive questo settore, come quella della combustione del legno per la produzione di energia, che se per alcuni versi è comprensibile ed anche condivisibile, per altri è dannosa per le attività ad esempio dei mobilieri, e in Italia non sono pochi. Dicevamo, ci sono stati gli Action Days europei e questa è stata l'occasione per Fabio Pisanu di incontrare e intervistare il presidente di Assopannelli, Paolo Fantoni, e di chiedergli proprio di questo conflitto tra industria del legno ed industria energetica. Si è detto no allo scontro frontale con le biomasse. È una questione che però va in qualche modo gestita e regolamentata. Lo scontro frontale con le biomasse c'è stato soprattutto per porre agli occhi dell'opinione pubblica certi scempi che nascevano dalla conversione di grandi centrali a carbone in centrali a biomasse, cosa che oggi sta sconvolgendo il mercato delle materie prime, soprattutto in Inghilterra, ma soprattutto c'è stata una successiva condivisione con anche i colleghi che producono energia da biomasse, con i colleghi che producono biomasse, nella orientamento della logica delle centrali a biomasse su delle logiche territoriali dove venga privilegiata la certezza della disponibilità, venga premiata la recupero di materiale all'interno di un raggio di 70 km, per cui con costi di logistica della materia prima limitati, con tutta una serie di elementi a corredo, quali il premio alle centrali che effettivamente producono anche energia termica oltre all'energia elettrica e non soltanto energia elettrica, dove la efficienza energetica rappresenta un livello scarsamente interessante. E abbiamo cercato anche di riaffermare un principio che a noi industriali del legno, ma credo anche al mondo ambientalista, preme, cioè quello del fatto di considerare il legno come una materia nobile che deve essere prima utilizzata, riutilizzata, riciclata e valorizzata termicamente solamente come ultima chance del processo del ciclo di vita del nostro prodotto. Tutta questa discussione, che spesso ha assunto anche momenti di vera e propria contrapposizione, oggi ci ha portato, penso tutti, ad una gestione molto più matura e molto più competente di questi vincoli, di questi limiti, per cui per fortuna in Italia possiamo anche dire che non abbiamo più quello spettro di grandissime centrali a biomasse, così come invece purtroppo osserviamo in certi altri paesi europei. Diciamo che il riferimento al chilometro zero è forse un po' forzato ed era invece più corretto parlare appunto di questo premio che il garante della rete riserva alla produzione di energia fatta con legno che deriva da un perimetro non superiore a 70 km di distanza dalla centrale. Non è diciamo un'esasperazione di quanto invece avviene in altre logiche, in altre filiere, anche perché nella realtà industriale del nostro legno dobbiamo fare i conti con la differente natura delle specie legnose, per cui sul territorio gli usi industriali del legno sono evidentemente legati a degli elementi di tradizione e degli elementi di specifica caratterizzazione tecnica delle varie specie legnose che non possono essere così facilmente sostituite o rimosse come può avvenire magari nell'alimentazione o in altri elementi. Però diciamo è importante che anche nella nostra filiera si inizi a guardare all'efficienza nella logistica, è importante soprattutto che si inizi a guardare, questo diventerà oggetto di legge nel prossimo futuro, a una caratterizzazione dei legni che arrivano oltre i confini della Comunità Europea, stando molto attenti al protocollo della due diligence, al fatto che i legni di provenienza extracomunitaria devono essere soggetti a un protocollo disciplinare che ne garantisce la legalità della loro provenienza. E così Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli, ci ha portato dalle centrali a biomasse alla necessità di gestire le foreste e catalogare il legno che abbiamo in Italia o che importiamo dall'estero. Questo, come diceva lui stesso, accadrà nel futuro. Nel presente c'è invece la lettera che la Federazione Europea dei Produttori di Pannelli ha consegnato ai parlamentari di Bruxelles, in cui si riassumono i pregi del legno, una risorsa che si rinnova naturalmente, che può facilmente essere riutilizzata e riciclata e che al termine del suo ciclo di vita può anche essere bruciata per produrre energia, ma solo al termine del ciclo di vita, come dicevamo prima. Utilizzando il legno per scopi industriali, inoltre, si ottimizza l'effetto legato allo stoccaggio del carbonio, con benefici per l'ambiente ma anche per l'occupazione e l'economia. Perché ricordiamo, la filiera del legno garantisce in Europa oltre 2 milioni di posti di lavoro e genera un introito di circa 200 miliardi di euro. Guardando al presente, Fantoni vede meno nero di qualche tempo fa. Per il nostro settore, per la nostra filiera, sono estremamente confortanti e ottimiste, perché legate a un processo di rivalutazione il legno finalmente viene riconosciuto come un materiale virtuoso che, stoccando CO2, può dare diritto ai suoi produttori o trasformatori all'acquisizione di questi diritti, che conseguentemente rappresentano un vantaggio economico per le nostre aziende. Ma più che questo, secondo me, è estremamente importante che questo tipo di diritti e questo tipo di affermazioni sottende un posizionamento nobile del nostro prodotto, che a questo riguardo diventa a tutti gli effetti la prima scelta che le nostre aziende devono valutare nella realizzazione di case, nella realizzazione di ponti, nella realizzazione di mobili. E certamente andremo a disturbare un po' i produttori di cemento, i produttori di alluminio, i produttori di ferro, ma questa rappresenta un giusto riconoscimento appunto al legno in quanto elemento che può stoccare il CO2 e che nel recente passato aveva, secondo noi, sofferto un po' di una immagine negativa che anche in media hanno contribuito a costruire, dove l'albero che cade nella foresta faceva molto più impressione dei 1000 alberi che cadono, si guardava al deterioramento del microambiente senza guardare invece che un bosco che invecchia, che non viene coltivato, che non viene gestito, si deteriora, non produce più ossigeno, non consente più un passaggio, un controllo idrogeologico. Ecco, dicevamo, il legno ha sofferto probabilmente di un pregiudizio negli anni scorsi, adesso torna invece alla giusta dimensione, insomma, di risorsa importante che riguarda più settori. Assolutamente sì, siamo in presenza di un vero boom nell'apprezzamento da parte del mercato delle case fatte in legno. Assistiamo a un processo nel quale in primis si è dato credibilità al legno nella realizzazione dei tetti, ma oggi siamo alla realizzazione delle case intere, non solo dei palazzi. Milano si presta oggi a essere il sito nel quale avremo addirittura palazzine a 9 piani che verranno realizzate interamente in legno. La ricostruzione dell'Abruzzo è stata fatta per un circa 50% con case prefabbricate in legno di ottimo comfort, con un'ottima tenuta alla traspirazione e alla coibentazione termica, con delle ottime finiture, ma soprattutto con dei tempi di fornitura celeri, che molto spesso l'edilizia tradizionale non consente. Ma l'economia del legno in Italia è un'economia che deve essere assolutamente ripresa, riportata a dei livelli molto più alti. Abbiamo parlato del fatto che la ripresa del legno del bosco attualmente realizzata in Italia è una ripresa percentualmente molto bassa, come se avessimo un capitale in banca e andassimo alla fine dell'anno a escutere solamente il 20% degli interessi del nostro capitale, lasciando in banca disperso l'80% degli interessi che abbiamo maturato. Sebastiano Cerullo è responsabile area legno di Federlegno Arredo. Sempre intervistato da Fabio Pisanu, sottolinea il no al legno illegale e il sì al legno in nuovi e prestigiosi impieghi. Noi abbiamo un consumo del legno di circa 15 anni fa di 0,09 metri cubi, che è passato a 0,18. Con queste scelte Se verranno confermate quindi del legno come scelta di stoccaggio CO2, come aumento ormai già destinato dagli studi delle case di legno e del consumo di legno in genere, noi aumenteremo il consumo di legno. Ma questo consumo di legno da dove verrà? Se non riattiviamo, secondo il decalogo fatto da noi, secondo il tavolo della filiera legno del MIPAF, la risorsa locale, si rischia ancora di più che questa risorsa venga dall'estero, come oggi per l'80% del totale che arriva. E tutto il settore, dalle imprese boschive, il vero anello debole della filiera, alle nostre segherie che cominciano comunque, hanno sempre una concorrenza di questi colossi esteri, se hanno anche i costi di trasporto, rischiamo di destinare questo sviluppo, questo aumento di consumo a legno straniero non italiano, sapendo che abbiamo il 36% delle nostre superfici coperte da bosco. Questo 36% deve essere gestito in modo economico, senza drogarlo con contributi, se sono necessari si possono dare, ma che sia un'industria sana dell'industria del legno. Siamo pronti a accettare la sfida come imprese. Tocca anche al pubblico fare la sua parte, perché le regole le dettano loro. Citavamo le case di legno, l'edilizia sarà una dei settori chiave, potrebbe essere uno dei settori chiave per il rilancio, appunto. Il legno si presta a delle sfide che sembravano inimmaginabili. Il settore ci credeva, ma non ci credeva ancora il consumatore. C'erano delle piccole produzioni di case di qualità, ma negli ultimi 5 anni è cambiato tutto. I dati dicono che ci saranno delle crescite del 50%, un settore in crescita in un settore che sta avendo dei meno su tutti i livelli, perché è una casa di qualità a costo accettabile, se non uguale di quella fatta in altri materiali. Ma la cosa vera, e non è più la casetta, la baita come uno pensava, ma è la casetta che ha la struttura portante di legno, che è uguale e identica a un'altra casa, con prestazioni energetiche, isolamento acustico, proprietà antisismiche eccezionali. Questo ha dato fiducia, questo ha dimostrato che un settore è pronto e maturo, e adesso si stanno facendo in tutta Italia, dopo lo sblocco nel decreto di liberazione di Monti del permesso dei 3 piani, c'era tutte le costruzioni delle case superiori ai 3 piani dovevano essere autorizzate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Questo col decreto di liberalizzazione di Monti è stato tolto, e quindi adesso siamo a eventi importanti. Si parla in Viale Cenni di 9 piani, si parla alla Bicocca di un progetto a 15 piani, ma ci sono centinaia di progetti a 3, 5, 6 piani in tutta Italia. E adesso comincia anche la Regione Lazio. C'è un ultimo aspetto che mi pare molto interessante, è quello del dire no al legno illegale, no? C'è un regolamento europeo in tal senso che è abbastanza importante. Possiamo riassumere un po' questa vicenda? Sì, davanti a una crescita del 44% in 20 anni, cioè una crescita pesante delle superfici forestali in Europa e in Italia, come abbiamo detto, del 36%, esistono delle problematiche dovute spesso neanche al settore forestale, ma all'agricoltura, eccetera, eccetera, di alcune importazioni illegali di legno. Davanti a questo, in 3 anni l'Unione Europea è uscita con un regolamento obbligatorio da marzo 2013 che vieterà l'importazione e l'utilizzo di legname illegale all'interno dei confini dell'Unione Europea. Le imprese che già oggi, la maggior parte, cominciano già a essere certificate dal punto di vista della gestione sostenibile delle foreste con i 2 marchi principali che sono PFC ed FSC, dovranno inoltre, no, fare un'analisi del rischio, una due diligence sull'acquisto dei legnami extra-UE per dimostrare, e lo dimostreranno, di non acquistare legname illegale. In caso di forniture dubbie non lo dovranno acquistare, se no saranno sanzionate. Quindi non ci sarà problema per la maggior parte delle imprese a fare un'operazione del genere. Quindi, oltre alla certificazione forestale, andiamo a mettere un ulteriore tassello in più, che è questo di un obbligo europeo. Quindi non si potrà più dire se è illegale, è una denuncia che deve partire, siamo i primi a denunciare. Quindi da marzo 2013 le imprese italiane, le imprese europee, dovranno anche conformarsi a questo nuovo regolamento europeo, che mette l'ultimo tassello, cioè non solo la certificazione volontaria, ma anche l'obbligo di una dovuta diligenza nell'acquisto del legname che entra per la prima volta in Unione Europea. E questo sarà l'ultimo tassello che manca. Quindi se io compro legno, è sostenibile, non è legale, quindi non è illegale, e inoltre, no, faccio un favore all'ambiente, accumulo CO2, quindi cosa vuoi di più dalla vita? Ecco. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, bentornati. Stiamo parlando di legno oggi, sull'onda della mobilitazione europea lanciata dalla European Panel Federation, cioè la federazione europea dei produttori di pannelli, cui hanno partecipato in Italia diverse associazioni del legno facenti capo a Federlegno Arredo, per sensibilizzare le istituzioni sull'uso del legno per scopi industriali e solo a fine vita per la produzione di energia, perché sono proprio le centrali a biomassa le grandi concorrenti oggi della industria del legno italiana ed europea. Di tutto questo abbiamo parlato nella prima parte, nella seconda ci occupiamo però di gestione delle foreste, perché è chiaro che per avere una maggiore disponibilità di legno, mantenendo e non distruggendo le foreste, bisogna gestire le risorse in modo adeguato e noi non lo facciamo benissimo, purtroppo. Dice Raul Romano, ricercatore dell'INEA, che è l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, che nel nostro paese si utilizza solamente il 20% del legno che si rigenera ogni anno nei nostri boschi, mentre importiamo l'80% del fabbisogno dall'estero. Eppure saremo in un periodo di grazia per le nostre foreste. Il patrimonio forestale nazionale in questo momento è sicuramente all'apice del suo splendore, perché abbiamo una superficie forestale censita nel 2005 che, con l'inventario forestale nazionale, che ci dice che le nostre foreste hanno raggiunto il 34% della superficie nazionale, cioè oltre 10 milioni di ettari. Di queste abbiamo una distinzione da fare tra quello che è veramente bosco e quello che sono altre terre boscate, cioè la macchia mediterranea o altro. Si tratta di un patrimonio dal punto di vista di biodiversità, di diversità ecologica e faunistica, insomma, molto molto interessante. Sicuramente però è anche un patrimonio di conoscenze e culture artigianali, locali, enorme, che rischia però di perdersi, perché oggi noi le nostre foreste sono le meno gestite d'Europa. Se noi vogliamo fare un confronto col resto d'Europa, abbiamo che l'incremento annuo delle nostre foreste viene utilizzato per poco meno del 25% rispetto alla media del resto d'Europa, che invece è del 65%. Se noi però andiamo a guardare le foreste austriache o le foreste tedesche, dove questo incremento viene utilizzato per oltre l'80%, sicuramente non stiamo parlando di foreste distrutte o devastate. Si tratta invece di una corretta gestione capace di mantenere quella che è la risorsa forestale sempre pronta è disponibile per le necessità di oggi e soprattutto per le necessità future, e che viene fatta secondo dei criteri che sono quelli riconosciuti a livello internazionale. Questo in Italia manca. I motivi per cui manca sono molteplici e sono ormai, diciamo così, cronicizzati. Sicuramente una scarsa attenzione da parte delle amministrazioni nei confronti del patrimonio forestale nazionale ha portato a un calo di interesse da parte dei singoli privati a mantenere e a gestire il proprio bosco, una frammentazione delle proprietà molto piccole, spesso di cui non si conosce neanche il proprietario, portano a non intervenire in questo bosco. Però noi abbiamo un'industria che lavora il legno, che è la prima in Europa e tra le prime tre nel mondo come prodotti esportati, però lavora per più del 70% con legno straniero. Il legno italiano non viene utilizzato. Oggi c'è un grande boom per quello che è la filiera energetica, ma anche lì siamo il più grande importatore di legna d'ardere d'Europa. Questo implica proprio che le nostre foreste non vengono utilizzate, vengono considerate un grande patrimonio di biodiversità, di genetica, protette e tutelate, ma oggi vi è la necessità di intervenire in queste foreste, come storicamente si è fatto per oltre 7.000 anni e l'uomo ha lavorato sulle nostre foreste. L'inventario stesso ci dice che oltre il 90% delle foreste italiane sono foreste gestite, foreste naturali, si tratta di una piccolissima percentuale ben puntualizzata. Tornare a gestire queste foreste significa avere anche dei ritorni da un punto di vista di assetto idrogeologico, di uso e fruizione, di fornitura di beni e servizi sia ambientali che sociali a tutta la popolazione. Grazie a Fabio Pisanu anche per questa intervista. E ora che cosa accadrà? Nei mesi prossimi sono in calendario altre iniziative a livello europeo, mentre in Italia, dice Fantoni, che ricordiamo è il presidente di Assopannelli, il prossimo passo sarà quello di delegare un imprenditore associato per regione affinché segua le politiche forestali con maggiore attenzione ed efficacia. Quindi torneremo ad affrontare l'argomento in futuro e sarà per noi un piacere. Adesso invece è il momento di cedere il microfono a Mr. Kilowatt, ovvero Maurizio Melis. Tra un'accelerazione e una frenata l'estate si avvicina, è il momento migliore per attrezzarsi in vista della stagione calda, in modo da evitare di dover ricorrere troppo al condizionatore, cosa che non fa bene né al portafoglio né alla salute. Uno degli aspetti più trascurati in questa partita è il controllo degli apporti solari. La luce del sole, quando entra perpendicolarmente da una finestra, può alzare di 10 gradi la temperatura di una stanza, che vuol dire passare da una temperatura confortevole a una situazione davvero infernale. Pochi sanno che sono soprattutto le finestre ad est e ad ovest le più critiche. D'estate, infatti, quando il sole si trova a sud, è anche molto alto nel cielo e basta una piccola sporgenza sopra una finestra, per esempio un balcone, per schermarla alla perfezione. Quando invece il sole si trova ad est o a ovest, cioè in prossimità dell'alba o del tramonto, esso è molto basso sull'orizzonte e penetra perpendicolarmente all'interno delle case attraverso le finestre esposte appunto ad est e ad ovest, con i risultati che abbiamo detto. Per evitare il surriscaldamento bisogna fermare la luce del sole prima che entri in casa. Una tenda interna non serve a niente, perché una volta entrata la luce si trasforma per gran parte in calore, che a quel punto rimane confinato in casa, è il ben noto effetto serra. Il metodo ideale per evitare il surriscaldamento estivo senza rinunciare alla luce del sole consiste quindi nell'applicazione delle cosiddette protezioni solari. Parliamo in pratica di sistemi molto simili alle veneziane, quelle con le lamelle orientabili, solo che sono sistemi concepiti per essere posizionati all'esterno e quindi in grado di resistere agli agenti atmosferici. In mancanza di ciò, ricordate, d'estate imposte e finestre chiuse durante il giorno, direi proprio serrate, finestre invece aperte la notte anche molto a lungo, per far sì che anche il calore accumulato dai muri venga il più possibile dissipato, portato via dall'aria fresca quando c'è della notte. Articolo 9 è invece la rubrica a cura di Marco Carminati. L'abbiamo chiamata così per fissarci bene in mente l'articolo 9 della Costituzione italiana, quello a tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi facciamo un giro nei dintorni di Milano, che offrono delle singolari aree che nessuno di noi immaginava esistessero. Per esempio, che alle porte di Milano esista una delle pinete più meridionali d'Europa. Ne parliamo con Giancarlo Cattaneo, che è il direttore del polo culturale Insieme Groane, perché noi stiamo parlando proprio del Parco delle Groane. Buongiorno, dottor Cattaneo. Ah, buongiorno, grazie di questa vostra chiamata, perché quando è possibile parlare dei propri territori è sempre una cosa che... Ma certo, infatti adesso lei dovrà parlarci del suo territorio. Intanto ci dica dove siamo esattamente, che cos'è questo Parco delle Groane. Siamo a due passi da Milano, nord-ovest di Milano, in una lingua che si è salvata grazie ai comuni, e quindi è una striscia lunga 20 chilometri che intorno ha subito le più grandi trasformazioni dell'Italia del dopoguerra. Questo, certo, è un territorio che un tempo era agricolo, che poi è diventato industriale, qui c'era l'Alfa Romeo di Arese, e poi dopo post-industriale, insomma, questo territorio, diciamo la verità, è stato più volte martoriato e violentato, però, certo, si è salvato questo bene ambientale di primaria importanza grazie al Parco delle Groane e alla volontà dei comuni. Però io so che oltre al verde questa zona è anche dal punto di vista culturale, artistico, ricca di monumenti. Ecco, che cosa possiamo incontrare per esempio in questa zona? Partendo dalla parte meridionale del parco, troviamo Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, uno, certo, dei monumenti più importanti del nostro paese. Se lei pensa che quando abbiamo fatto qualche anno fa con i luoghi del cuore del FAI, sì, il referendum è stato il più votato d'Italia nel 2004, certo, un luogo straordinario che ha bisogno di essere recuperato, e qui faccio un piccolo appello, non, certo, pensiamo di poter fare un Expo che ha una credibilità se lasciamo a 4 chilometri dal sito dell'Expo deperire uno dei luoghi più simbolici d'Italia. Gli Arconati, per chi non lo sapesse, sono quelli che hanno donato il codice atlantico all'Ambrosiana di Milano. E hanno costruito questa specie di Versailles, di piccola, sì, Versailles alle porte di Milano. Ecco, sì, però voi non siete qui solo per parlare, lei non è solo qui per parlare e raccontarci queste belle cose, ma per portare una testimonianza che tra l'altro comincia oggi e dura per tutta la settimana. Cosa fate voi per valorizzare quest'area? A parte 220 che io non potrei certo riassumere qui, 60 luoghi aperti, le ville di edilizia, ma anche le chiese, gli oratori, cioè delle cose incredibili, le chiese moderne fatte da architetti importantissimi. ma cos'è che ci rende proprio, diciamo, orgogliosi? Che questo lavoro l'abbiamo fatto con i giovani, cinque anni di esperienza con 250 giovani volontari. Dunque noi abbiamo l'onore oggi di avere ospite all'interno diciamo come inaugurazione della settimana fregorale il ministro Ornaghi, ministro dei beni culturali e rettore della Cattolica di Milano. Un onore per due motivi: uno, perché ha reso felicissimi i nostri giovani. Noi con 250 giovani volontari riusciamo a costruire 200 eventi e aprire 60 siti. Senza i giovani non sarebbe possibile questa iniziativa. Però per far sì che i giovani si avvicinino alla cultura occorre che i giovani siano protagonisti. Non possiamo pensare ai giovani solo passivi. I giovani devono essere i protagonisti. Certo. E questa è stata, diciamo, l'originalità della nostra proposta. Senta, dottor Cattaneo, io la ringrazio molto proprio per questo messaggio finale. Non solo la salvaguardia e la tutela di un'area verde in una zona così compromessa dalla civiltà industriale, non solo l'attenzione al patrimonio artistico e culturale di questa zona, ma il fatto di coinvolgere i giovani cittadini nella tutela diretta, nell'impegno diretto per fare qualcosa a servizio della collettività e in questo caso fare i ciceroni, illustrare a chiunque voglia venire. Io spero che per esempio molti milanesi prendano questa bellissima ferrovia nord e scendano le fermate che costellano tutto questo parco per poter aderire alle vostre iniziative. Quindi io la ringrazio molto, dottor Cattaneo, di questa iniziativa. Ecco, posso dire un'ultima battuta? Sì, ma velocemente, perché abbiamo poco tempo. I volontari acquisiscono delle competenze, ma noi dobbiamo pensare che con le competenze che acquisiscono devono trovare poi un lavoro. Certo, e quindi speriamo che questa economia che ricomincia dalla cultura, che ricomincia dal nostro patrimonio culturale, dalla nostra ricchezza che è questa, la nostra storia, il nostro ambiente, possa ben organizzata in forme di turismo, in forme di didattica, eccetera, alimentare anche la possibilità di apertura di nuovi posti di lavoro. Grazie mille, dottor Cattaneo. Grazie a voi, grazie mille. E un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti per l'ascolto. Per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it. Potrete riascoltare questa puntata da lunedì sul nostro sito internet radio24.it. Da Laura Bettini un saluto e appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.